È martedì 17 dicembre e si avvicina il Natale. Dai, dai, schema Allegri inserito a palla. Dai, forza! Andiamo a vedere i titoli. Il Sole 24 Ore apre con che cosa? Prima casa, Tasi più leggera. Questo è il titolo di prima pagina. Si va verso un tetto massimo dell'1 per 1000 senza aumenti dei comuni. Queste le ultime novità sulla legge di stabilità che è in discussione da oggi alla Camera. Per il Corriere della Sera l'apertura è proprio su Napolitano. L'amaro sfogo del presidente, questo è il titolo di prima pagina. Per Repubblica, Napolitano no al voto anticipato. Per La Stampa, Forconi, allarme di Napolitano. Il Messaggero, il Colle, rischio di scosse sociali. Il Giornale invece è più duro, Napolitano ricatta l'Italia, questo è il titolo di prima pagina. Per il Fatto Quotidiano più o meno simile, Re Giorgio avverte Renzi, come dico io o me ne vado. Mentre per l'Unità, l'ultimatum di Napolitano. Questo invece è il titolo di apertura di Libero, le tasse sulla casa se le mangia la casta, ci costa 23 miliardi l'anno. Per Avvenire invece sempre più poveri, agire ora, questo è il titolo di prima pagina, è un'indagine dell'Istat, uno italiano su tre è a rischio povertà. Io però, come la scorsa settimana, voglio aprire questa rassegna stampa con l'allarme lanciato ancora una volta da Angelino Alfano, in questo caso dal ministro dell'Interno, sulla questione dei magistrati sotto minaccia mafiosa. Inasprire le norme che isolano i boss dalle cosche, questo per esempio è il titolo di pagina 21 del Corriere della Sera, insomma Alfano ha detto bisogna inasprire il 41 bis, soprattutto c'è una persona, un magistrato che è più degli altri nel mirino della mafia, questo per le intercettazioni in carcere di Totò Riina, che pur essendo molto molto controllato avrebbe detto, ha detto, ci sono le registrazioni, racconto dei giornali, di minacce esplicite nei confronti del magistrato di Palermo Nino Di Matteo, uno di coloro che sta indagando sulla trattativa Stato-mafia. Ebbene, ancora oggi Repubblica alza l'allarme su questa vicenda, pagina 9, Attilio Bolzoni, che è uno di più una delle penne che da sempre segue le vicende di mafia da tantissimi anni, racconta proprio la vita di Nino Di Matteo. A volte mi chiedo se ne valga la pena, ma le minacce non mi fermeranno. Repubblica, pagina 9. Racconta Bolzoni, la prima volta che ha indossato la sua toga di magistrato era notte, il 24 maggio 92. Ancora uditore giudiziario, faceva il picchetto d'onore fra le colonne di marmo del Tribunale di Palermo. Stava lì in piedi davanti alle bare di Giovanni Falcone e Francesca Morvillo. Sono passati più di 20 anni da quando abbiamo conosciuto Nino Di Matteo, immobile in mezzo all'immenso atrio illuminato solo dai ceri. Ce la ricordiamo tutti quella notte, il buio, il silenzio, il dolore, la paura. Poi l'altra bomba, l'altro picchetto d'onore, il 19 luglio. E lui dice, a volte mi chiedo se è giusto andare avanti per me e per la mia famiglia. Razionalmente penso che non ne valga la pena. Ma poi un impasto di sentimenti si fa largo e mi trascina a una sola risposta. Ne vale la pena, è giusto così. Le carte della trattativa su Stato e Mafia, non quelle del processo che si sta celebrando contro l'ex ministro degli interni Nicola Mancino e gli ufficiali dell'arma insieme al boss, le altre, quelle delle indagini che continua oltre il processo, ecco, lui si china su una scrivania coperta di quei fascicoli. Ora dice, diciamo che è una coincidenza, l'ordine di morte partito da Riina e tutti quegli anonimi sono arrivati in sincronia quando, anche dopo il rinvio a giudizio degli imputati, con i miei colleghi abbiamo deciso di non fermarci con l'inchiesta. Ma racconta Di Matteo, io sono sotto scorta dal 93, già la mafia di Gela voleva farmi fuori. 51 anni, moglie, due figli, padre avvocato, nonno giudice, ora dice sapevo a cosa andavo incontro quando ho cominciato a fare il magistrato, il lavoro che volevo fare, il PM, non il giudice. A Palermo avevano già ucciso molti colleghi, c'era già stato Capaci, Via D'Amelio, ma non credevo che si potessero ripresentare momenti così. Mai era accaduto che un PM non potesse andare in udienza per motivi di sicurezza, come è capitato la scorsa settimana, volevano portarlo a Milano con un blindato. blindato, tipo quello che il nostro esercito usa in scenari di guerra come l'Afghanistan o l'Iraq. Troppo pericoloso spostarsi, troppo pericoloso restare anche a Palermo per Di Matteo. Dunque non va più a nuotare alle 7 del mattino, non va più allo stadio a vedere le partite. Ogni tanto i suoi angeli custodi, questi uomini che lo seguono sempre con il mitra, lo trascinano in qualche caserma dove si fa mezz'ora di jogging e ha sempre uomini armati al seguito. Un confidente ha appena svelato che è arrivato l'esplosivo anche per lui. Era accaduto anche nell'estate del 92, quando qualcun altro aveva annunciato il tritolo per Paolo Borsellino. E allora la domanda, tutto come 20 anni fa? Sentite cosa risponde Di Matteo. No, c'è una differenza importante. Allora c'era il silenzio intorno a Paolo. Oggi ci sono tantissimi italiani che stanno dalla nostra parte. Semmai stridono certi silenzi istituzionali se confrontati alla solidarietà dei cittadini, delle persone senza nome che mi scrivono. E qui Repubblica dà una stoccata molto dura al ministro della giustizia Cancellieri, l'amica dei ligresti, sottolinea Repubblica, che ha mostrato un certo distacco finora nella vicenda. Vabbè, questa è la storia e il racconto di Nino Di Matteo su Repubblica nel giorno in cui Angelino Alfano ha lanciato nuovamente l'allarme a dire ci sono magistrati nel mirino della mafia e bisogna aumentare l'attenzione, aumentare anche le maglie del 41 bis. Oh, come detto, noi parleremo di finanziamento ai partiti, oggi c'è questa cifra, abbiamo sentito anche nel giornale radio questa cifra certificata dalla UIL. La UIL ogni anno fa un rapporto molto dettagliato sui costi della politica. Volete qualche cifra che vi rimarrà di traverso insieme alla brioche che state gustando a colazione? Una è questa: 23,2 miliardi di euro, è l'1,5% del PIL. 23,2 miliardi di euro è ciò che costa la politica all'anno, secondo questo rapporto della UIL. In pratica sono 757 euro a contribuente. Ogni anno, questo è lo studio, i titoli sono ovunque, la politica è cara 23,2 miliardi, così titola Il Fatto a pagina 3, la politica costa 23 miliardi l'anno, titola La Stampa a pagina 9, insomma diciamo che ci sono titoli abbastanza simili, 23,2 miliardi, l'1,5% del PIL, secondo questo rapporto della UIL si potrebbero risparmiare 7,1 miliardi senza fare grandi sforzi. E vabbè, quante sono le persone che vivono di politica? 1,1 milioni, 1.100.000 italiani vivono in qualche modo grazie alla politica. Si tratta di una percentuale di occupati più o meno, credo, del 5%. Il 5% della forza lavoro del paese vive di politica. A proposito di costi alla politica, il quotidiano nazionale fa sapere che Matteo Renzi sta mettendo anche il naso nei conti del Partito Democratico, visto che ora è il segretario. Titolo del quotidiano nazionale, pagina 11: il segretario chiude i rubinetti, panico nel PD, salva però la TV di Bersani. Salva e resiste almeno per quest'anno UDEM, la TV di Bersani, anche se, racconta sempre il quotidiano nazionale, dovrebbe saltare il direttore Chiara Geloni, accusata di essere troppo bersaniana, il contratto in scadenza non le sarà rinnovato. Questo almeno raccontano i giornali. Oh, vi voglio lasciare prima della pubblicità un attimo con questa notizia che viene pubblicata da Repubblica, pagina 21. Giulia Cerasi, sapete che sei inventato il comandante dei vigili urbani di Roma? Il comandante dei vigili urbani Raffaele Clemente, dall'ottobre scorso a capo dei vigili urbani, ha fatto questo invito: cari cittadini, denunciate su Twitter la sosta vietata. Non ho capito bene perché su Twitter. Comunque, denunciate su Twitter. Twitter non ce l'ha, che fa? Vabbè, comunque. Denunciate su Twitter la sosta vietata. Questo l'appello del capo dei vigili urbani. Pubblicate le foto con le targhe. oh, ma che è? Cioè, ovviamente il web si è diviso, ma che è la delazione? No, è giusto, perché bisogna, insomma, invitare i cittadini a comportarsi in maniera civile, quindi metterli alla berlina o metterli alla gogna mediatica, non lo so. Comunque, questo è l'appello, la sosta selvaggia si combatte via Twitter. Raffaele Clemente, in un cinguettio e quindi in un appello su Twitter, chiede ai cittadini di segnalare sul social network le targhe delle auto parcheggiate in doppia fila. Oh, ma tu Pietro la Corte lo faresti a Roma? Pietro la Corte, il nostro tecnico, fa no, no, lui no, no, non vedo, non sento, non parlo, no, che c'entra, perché non lo faresti? Non lo so, effettivamente il dibattito c'è. Voi segnalereste su Twitter o dove volete, su Facebook o al telefono, che ne so, uno, trovate la sosta vietata e segnalate la targa. Mannaggia, oh. Ma siamo ridotti così. Non lo so, intanto andiamo in pubblicità, poi ripartiamo dall'attualità politica. Giorgio Napolitano in primo piano. Ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Allora, alle 7:34 minuti, il protagonista indiscusso ieri della giornata politica è stato il capo dello Stato Giorgio Napolitano, che ha fatto il suo discorso istituzionale di saluti e ha detto delle cose in occasione degli auguri alle alte cariche istituzionali molto molto interessanti. Beh, i giornali titolano, ognuno prende, diciamo, uno stralcio del discorso del Presidente della Repubblica, ma gli argomenti più interessanti sono il rischio di scosse sociali, il no al voto anticipato. Il Sole 24 Ore mette questi due concetti a pagina 14 riassunti: rischio di scosse sociali, no al voto, questo è il titolo, ma soprattutto forse l'aspetto che c'è anche nel sottotitolo: servono riforme, valuterò la sostenibilità del mio mandato. Insomma, un Giorgio Napolitano che ha ribadito: io sono stato rieletto per essere anche il garante delle riforme, valuterò se queste riforme vengono fatte e quindi se tutto ciò è sostenibile e compatibile con il proseguimento del mio mandato. Tradotto in parole povere, ha detto, ha messo in campo l'ipotesi di missioni. Lina Palmerini racconta, pagina 14, l'attenzione al malessere sociale che ha bisogno di risposte, non di elezioni anticipate dall'esito incerto. No all'aspettativa di elezioni anticipate dall'esito dubbio. Ha messo però anche sul tavolo le sue dimissioni. Infatti, nel momento dell'accettazione del suo secondo mandato, scrive Il Sole, legò il suo incarico a un percorso di riforme vitali per la funzionalità del nostro sistema democratico. E di nuovo Napolitano ha prospettato la possibilità di un suo abbandono se quel percorso i partiti dovessero smarrire. Il passaggio è questo: ho già avuto modo di indicare i limiti entro cui potevo impegnarmi a svolgere ancora il mandato di presidente. Di quei limiti, credo abbiate memoria, non mancherò di rendere nota ogni mia valutazione della sostenibilità in termini istituzionali e personali dell'alto e gravoso incarico. Poi, oltre a evocare la necessità di non andare a voto, ha evocato ancora e ha invocato le riforme, il Parlamento faccia le riforme, soprattutto la nuova legge elettorale. E qui veramente io non so più che aggiungere, cari ascoltatori. E poi ha detto, riferito a Silvio Berlusconi, faccia appunto le riforme, partecipi alle riforme, ma non evochi golpe, ipotesi di golpe istituzionale. Ed è infatti Silvio Berlusconi colui che ha reagito, questo raccontato da tutti i giornali, dai retroscena, in modo più acceso alle parole di Napolitano, tanto che il giornale titola così in prima pagina: Napolitano ricatta l'Italia, ma tutti i retroscena raccontano di un Berlusconi infuriato. Berlusconi, Napolitano si dimetta, non mi fa paura, questo è il titolo di pagina 3 della Stampa, retroscena di Amedeo La Mattina. Secondo la Stampa, addirittura i rappresentanti di Forza Italia che erano presenti al discorso di Napolitano hanno detto, come Gregorio Fontana: ci siamo guardati in faccia esterrefatti, volevamo alzarci e andarcene, non l'abbiamo fatto solo per il rispetto del luogo in cui ci trovavamo, ha scavato un solco profondo e alla fine del discorso ce ne siamo andati perché non volevamo partecipare al brindisi dell'ipocrisia. Queste le parole di Gregorio Fontana, Forza Italia, presente al Quirinale, da arcore subito si è levato l'urlo del cavaliere. Napolitano ha superato il limite della decenza. Oggi abbiamo l'ulteriore conferma della fine della sua funzione istituzionale di garanzia super partes, tanto che, secondo tutti i retroscena, Berlusconi è pronto ad appoggiare l'eventuale impeachment presentato da Beppe Grillo e dal Movimento 5 Stelle. Eccolo qui. Anche per Repubblica, retroscena in prima pagina di Carmelo Lo Papa, continua poi a pagina 3, il cavaliere pronto al colpo di coda finale. Ha ragione Grillo, è tempo di impeachment. È arrivato a dire, così Berlusconi ai suoi, che la legge elettorale va discussa anzitutto nella maggioranza, ormai è tutto fuorché un presidente di garanzia. Insomma, l'uscita di Napolitano è stata sufficiente a rovinargli il pre-partita e perfino il compleanno di Dudu. Ieri era il compleanno di Dudu, ma su questo ci arriveremo probabilmente tra poco. Per la verità Berlusconi non è l'unico che ha lasciato in anticipo la cerimonia al Quirinale, anche a Matteo Renzi. Tra l'altro Francesco Bei su Repubblica pagina 4 fa notare che il sindaco di Firenze, nonché segretario del PD, si è presentato con un vestito color ghiaccio, color chiaro. Voi dite, beh, chi se ne frega? Ma sapete che in questa Italia un po' barocca, un po' parruccona, un po' burocrata, tutto ha un significato. E anche vestirsi in questo modo, in un'occasione in cui l'etichetta imporrebbe di vestirsi in scuro, è stato segnalato dai giornali. Renzi invece ha voluto rimarcare la propria differenza, si è vestito in chiaro. E tra l'altro non ha atteso neanche il buffet. Sapete, vedete, italiani, interrogatevi su queste cose profonde, profondamente importanti. Non ha aspettato il buffet, è andato via prima. Che sarà questo significato? Ci sarà un qualcosa dietro queste mosse di Matteo Renzi? Chi lo sa? Ecco, Repubblica dedica mezza pagina a questo. Il sindaco gela la cerimonia del Colle. La sedia in nona fila, si veste in chiaro e fa la fuga prima del buffet. Queste sono le notizie che contano, mica che ne so che l'Istat dice che un italiano su tre è a rischio di povertà. No, queste notizie le trovi per esempio in apertura di Avvenire. Oggi è il titolo di prima pagina e lo voglio segnalare, ovviamente sono amaramente ironico, ma voglio segnalare con favore la scelta di Avvenire di fare questa apertura con l'articolo a pagina 9 di Luca Liverani sulla soglia della povertà, un italiano su tre, uno di quegli italiani su tre che non si può vestire né in grigio né in chiaro, né in ghiaccio né in scuro e che non va al buffet del Quirinale. Più poveri al sud, più poveri rispetto all'Europa, più poveri se si vive in famiglia, più poveri rispetto a ieri. L'ennesima conferma delle pesanti ripercussioni sociali della crisi arriva dal report dell'Istat su reddito e condizioni di vita del 2012. Quasi una persona su tre, dunque il 29,9% dei residenti, è a rischio povertà o esclusione sociale. È un dato che schizza il 48% tra chi vive nel mezzogiorno. La situazione italiana poi è peggiore rispetto a quella della media dell'Europa, dove il dato è di 5,1 punti più in basso. In Europa infatti è il 24,8% quelli che sono a rischio povertà. In Italia, come detto, il 29,9%. Una famiglia su due non può più sostenere spese impreviste. È allarme soprattutto per le famiglie numerose. E ovviamente questa è la situazione. In tutto questo, il Sole 24 Ore oggi fa una pagina con Emilia Patta per raccontare quelle che sono le proposte di Matteo Renzi, che dovrebbero arrivare a breve, il cosiddetto Job Act, cioè il piano per il lavoro. L'idea è questa, molto in sintesi, è un'idea peraltro elaborata già dal giuslavorista Ichino, che un tempo faceva parte del Partito Democratico, ora non più. Il contratto a tempo indeterminato per tutti i neoassunti, ma senza la tutela prevista dall'articolo 18. Dunque, via al reintegro, in caso di licenziamento c'è solo l'indennizzo. Questo sarebbe il cuore un po' del provvedimento, poi spiegato più in dettaglio all'interno del Sole 24 Ore da Emilia Patta, appunto a pagina 15. Dunque, contratto a tempo indeterminato per i neoassunti per dare una garanzia di sicurezza, ma via la tutela dell'articolo 18. Ricordate, sono le vicende che portarono in piazza, anche quando ci provò Berlusconi vari anni fa, 3 milioni di persone, era l'epoca della CGIL di Cofferati, altri tempi, ma chissà se passerà, se i tempi sono diversi e maturi. Intanto voglio salutare Mauro Meazza del Sole 24 Ore. Mauro, buongiorno. Buongiorno, eccoci qua. Buongiorno. Non c'è ovviamente solo questo, che però mi sembra un articolo molto interessante perché anticipa insomma quelle che sono le mosse di Matteo Renzi, il politico a cui tutti guardano con più attenzione, ecco, diciamolo chiaramente. Ieri sul Sole raccontavamo appunto nelle pagine enormi attributi già l'utilizzo, il ricorso all'indennizzo piuttosto che, come si dice in gergo, alla reintegra. Quindi sarebbe un'accelerazione in questa direzione. Però chissà se il paese è pronto, questo lo vedremo. Ovviamente sul Sole 24 Ore si parla di questa mini Tasi che è un po' mi ha inquietato. Mini Tasi, ma grande. Perché tu dici già la mini IMU, abbiamo capito che era una cosa in più da pagare. No, la mini Tasi sarebbe, e sarà, vedremo adesso insomma si aspetta il voto parlamentare, una riduzione appunto della tassa sui servizi indivisibili che sarà contenuta, come sai, all'interno della IUC, ricordi la IUC? Come no. Ecco, l'imposta che non è un modello, non è un modello di macchina, ma senza fare pubblicità. Non è un modello di autovettura, la IUC, all'interno della IUC ci sarà questa mini Tasi che avrà un'aliquota ferma all'uno, massima ferma all'uno per mille. Tutto molto magmatico, quindi inviterei a una lettura ragionata di queste norme fino a che appunto non avremo un quadro, scusate il gioco di parole, stabile sulla legge di stabilità, ma insomma, come vedi, c'è sempre un andirivieni notevole. Abbastanza. Altri elementi sul Sole 24 Ore? Segnalare, allora, innanzitutto i tuoi 2 euro che tu dovrai investire prima o poi. Sì, prima o poi. Ma non lo so. Beh, insomma, puoi lasciarli lì. Non fruttano molto in tasca, questo è vero. Allora, Finanza 24, c'è un nuovo servizio che diamo digitale del Sole 24 Ore per seguire il proprio portafoglio, piccolo o grande che sia, non è un problema, non bisogna avere migliaia di euro per usufruire di questo servizio, anche piccoli investimenti. È un servizio che fa parte dei vari pacchetti, appunto, quotidiano del diritto, quotidiano della casa e quotidiano del fisco. Si aggiunge anche questo Finanza 24 per monitorare gli investimenti. Ad esempio, se hai comprato Moncler, No, non ho comprato Moncler, ma devo aver fatto male da quanto è stato. Forse poteva essere un affare. Ecco, poi invece ti volevo segnalare, non so, questa cosa del cuneo, non so se è stata compresa appieno. Il taglio al cuneo fiscale c'è, però è una norma che si sta un po' disegnando con un c'è però. Cioè, noi tagliamo il cuneo, però i risparmi che verranno dalla spending review, se verranno, prima andranno a qualcos'altro e poi dopo quello che avanza tagliamo il cuneo. Questa è più o meno una norma del se però, potremmo definirla. Non è un termine molto tecnico, mi scuseranno i giuristi, però somiglia un po' a questo. Se vuoi una buona notizia, se paghi le tasse a rate l'interesse legale diminuisce, va all'1% dal 2014. Così. Insomma, questo almeno per dare anche un buon respiro per quello che riguarda le notizie sul Sole 24 Ore. Intanto Alessandro, io, Mauro, ho ancora una cosa da dirti, insieme al Sole 24 Ore oggi c'è il quaderno delle risposte dei nostri esperti dedicato alle auto, visto che adesso lanci il traffico. Ah, mi sembra giusto. Multe, tasse, RC, insomma tutte le vicende legate alle auto, con il Sole 24 Ore oggi le risposte degli esperti. E visto che il comandante della Polizia Municipale di Roma invita a segnalare tutte le macchine che sono in sosta vietata su Twitter, e vabbè, insomma. Intanto Mauro Meazza, ti ringrazio. Domani a Roma, a proposito di Roma, che succede? Succede questo. Succede che ci sarà che cosa? La marcia su Roma, la retromarcia su Roma, la marcetta su Roma. Succede che dovrebbero scendere in piazza almeno l'ala più dura, l'ala oltranzista del cosiddetto movimento dei forconi o rappresentanti del 9 dicembre. Sono un po' spaccati, a dire la verità. Libero, per esempio, propone i due rappresentanti, Danilo Calvani, colui che tira dritto e dice andremo domani a Roma, viene intervistato, tutti nella capitale, lo vuole il popolo, arrivano adesioni da ogni parte, lo ha voluto il popolo, lo abbiamo voluto noi, sa quante richieste richieste di accreditamento ci sono pervenute, quante in questura, le adesioni sono altissime da tutta Italia. Mentre il leader più morbido in questo caso viene intervistato è Lucio Chiavegato, falegname, rappresentante di LIFE, i liberi imprenditori del Veneto. A Roma dice: noi andremo, ma andremo non domani, bensì domenica. Andremo infatti dal Papa, andremo in piazza San Pietro per la messa e dunque cercheremo anche che un segnale dal Papa. Sta di fatto che la situazione è difficile, come racconta Guido Ruotolo sulla Stampa in un retroscena a pagina 3, il contatto governo Forconi, timore per il caos a Roma. Il contatto è avvenuto in queste ore, racconta Guido Ruotolo, si vedranno, avranno un primo incontro ravvicinato, un rappresentante del governo e una delegazione dei Forconi che vogliono trattare, che condannano la violenza, che non vogliono assecondare spinte ribelliste, si studieranno, cercheranno di impostare un'agenda di temi da affrontare prima ancora da risolvere. Diciamo che in qualche modo c'è un tentativo di contatto, racconta almeno in questo retroscena la Stampa, tra i rappresentanti del governo e coloro che domani scenderanno in piazza a Roma. Sarà così? Intanto andiamo per l'appunto a sentire le informazioni sul traffico e poi rientriamo. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. E allora, insomma, avete sentito che proseguono i disagi in tempo reale. Il titolo del Fatto Quotidiano a pagina 6 riassume un po' anche la spaccatura all'interno del movimento Forconi contro Forconi. Domani la mobilitazione, c'è l'ala dei morbidi che dice: nessun corteo, nessun accampamento, faremo una passeggiata. L'ala dei duri, capeggiata da questo Danilo Calvani, che dice: la manifestazione ci sarà. E ci sarà tanta gente. Chi strizza un po' l'occhio a questo movimento è Silvio Berlusconi e Forza Italia, che un giorno sì, un giorno no, sembra che voglia in qualche modo incontrarli. Secondo quello che è stato distribuito anche ai giornalisti dal Mattinale, il Mattinale è un resumé di notizie del giorno che il portavoce Renato Brunetta fa sapere alle redazioni di giornali. Ebbene, secondo questo Mattinale c'è scritto: bisogna difendere il popolo del 9 dicembre. Questa è un po' la direttiva che viene data a tutte le linee del partito. Sono gente nostra, questa è la linea di Forza Italia, tanto che racconta il Messaggero a pagina 5, Berlusconi dice: li difenderemo noi. Questa è la sensazione, non c'è ancora stato un incontro, anche perché forse non si capisce bene chi incontrare, ma il dato di fatto è che c'è una tendenza a incontrare, a rappresentare alcuni di queste persone che sono in piazza. Oh, tra l'altro, notizia di cronaca invece, ve lo siete segnato? È una cosa che farà molto arrabbiare, perché l'opinione pubblica non digerisce affatto e la gente non digerisce affatto queste notizie che troverete oggi sui giornali. Ma presto ci saranno 3.000 detenuti in meno in carcere. È un effetto di decisioni che portano a sconti di pena, all'uso del braccialetto elettronico, ma anche a alcune revisioni della legge. Insomma, una questione abbastanza tecnica. Vi invito a leggere ciò che Liana Milella scrive oggi su Repubblica. Dopo tante parole sul carcere, oggi si passa ai fatti. È un decreto legge, 10 articoli per non far entrare o far uscire 3.000 detenuti in cella. Ne restano altri 66.000 dentro, ma la filosofia del ministro Anna Maria Cancellieri e del suo maggiore sponsor Giorgio Napolitano è che il mare non si può svuotare tutto d'un colpo. E dunque c'è questa manovrina carceraria in arrivo, coraggiosa, perché sui numeri delle scarcerazioni già piovono le critiche leghiste, fa sapere Repubblica. È una manovra anche attenta ai diritti dei detenuti, visto che per la prima volta nasce la figura del garante, ma sta di fatto che questa manovra porterà a un piccolo svuotamento delle carceri, 3.000 detenuti in meno. Saranno certamente già pronti i dibattiti e le polemiche. Va bene, siamo al momento. Beh, ieri c'è stato il calcio, ieri è tornato il campionato. Vabbè, ieri si è giocato Milan-Roma 2-2, grinta Milan, Roma frena. Questo è il titolo di prima pagina della Gazzetta dello Sport, ma siamo al momento conclusivo, al momento più atteso. Io lo sapevo che doveva tornare. chissà quando ce ne libereremo di questi articoli. Non del protagonista, per carità, lunga vita a Dudu, lunghissima vita a Dudu, che ieri ha compiuto un anno, ma io... Vabbè, il messaggero con il grandissimo Mario Aiello, che ha una penna sopraffina, scrive degli articoli di colore della politica, davvero da godere dalla prima all'ultima parola. Ma oggi mi tocca, caro Mario, amico mio, la carta costa va a te, al messaggero, festa grande ad Arcore per il primo compleanno di Dudu. Eccolo qua, il cavaliere, cioè Paparino, come lo chiamerebbe Dudu se parlasse, non è potuto andare ieri alla cerimonia dei saluti con Napolitano, perché il suo adorato barboncino bianco ha compiuto un anno. Gli han fatto la festa ad Arcore, Berlusconi, Francesca, una torta con una candelina e il regalino, vari doni, ma non quello che forse Dudu si aspettava di più, il permesso di dormire con Paparino e mammina sul letto. Ma Mario Aiello, ti rendi conto? Mezza pagina così! Ma insomma, la carta costa, la carta costa, e vabbè, giornale radio. Brutto cretino d'un Milan.